nella storia in cui tu credi. Vedi tutto il mondo rose e fiori, ti accorgi che ogni volto che ti guarda è stracolmo di colori. Colmi dentro ogni tuo vuoto che ti corre appresso. Viaggi con la mente, la tristezza è un tuo riflesso. Quello che io penso lo sento troppo spesso. Ho dentro questo fuoco che non ho mai spento. Vorrei che tutto vada sempre per il meglio. Vorrei la notte non restare mai più sveglio. Scoprire quanto tempo da passare in questa storia. Io do tutto a me stesso, non lo faccio per la gloria. Capisci bene? Capisci ciò che dico? Sei già dentro di me mentre tu mi punti il dito. Ma sento nella pelle la speranza leggera, aspettando che un giorno il mio desiderio si avvera. Sento che qualcosa dentro me cresce piano piano mentre io non so cos'è. Viaggio con la mente attraverso la fantasia. Credo in ciò che cerco per capire cosa sia. Sento che qualcosa dentro me cresce piano piano mentre io non so cos'è. Viaggio con la mente attraverso la fantasia. Credo in ciò che cerco per capire cosa sia.